5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello folks. Ciao gente. Imparando nuovi modi di dire in inglese, sarete più performanti nei vostri colloqui di lavoro o nelle vostre vacanze a Sharm el Sheikh. Aumenterete la vostra autostima e potrete finalmente esprimervi con i vostri amici che non parlano italiano, utilizzando i tipici modi di dire di cui la cultura popolare è piena. I sondaggi dicono che state cominciando ad apprezzare la nostra nuova rubrica Speak English, dedicata a chi parla italiano e vuole imparare l'inglese. And for who speak English and want to learn real Italian popular culture. Questa è una rubrica molto British. Infatti, si ascolta solo musica British. Il detto del giorno. Il detto del giorno. Il detto del giorno. Today way to say. Asciugare gli scogli. Asciugare gli scogli con un fono. Dry the sea rocks with a hair dryer. Dry the sea rocks with an hair dryer. Quando si fa una simile affermazione, si vuole intendere il desiderio di non perdere tempo in attività inutili. Ad esempio, ehi Franco, il tuo impegno sul lavoro non è sufficiente. Ehi Pier Giorgio, io non sto qui ad asciugare gli scogli. Alla frase possiamo aggiungere con il fono, per rafforzare il concetto di assoluta inutilità di suddetta operazione.